Fabio Battistini. Allora, riguardo al tema della crisi climatica ambientale, se così intendo, un forte impegno da parte del futuro sindaco a spingere tutto verso una serie di defiscalizzazione, esempio il bonus 110, volte alla piena riqualificazione energetica di tutti gli edifici. Questa è la prima attenzione che è possibile esercitare. Solo attraverso interventi strutturali come questo sarà possibile risanare nel tempo tutti gli edifici abitativi e non metterli a linea con l'esigenza ambientale. Questo è un costo che il comune deve assolutamente mettere a bilancio. Ancora, l'utilizzo dei fondi del PNRR per mettere a norma ambientale tutti gli edifici pubblici e le scuole. Sui riscaldamenti c'è già un obbligo di riconversione a metano di tutti i riscaldamenti e non tutti quelli della pubblica amministrazione sono stati riconvertiti. Anche qui col fondo del PNR si può dare una accelerata. Agli altri aspetti di competenza in qualche maniera di un sindaco, investire in qualità e sicurezza nella raccolta differenziata e salvaguardare il verde pubblico. Fluidificare il traffico con la costruzione di piste ciclabili protette, sottolineo tre volte protette, perché oggi c'è un piano disomogeneo, disorganizzato, assurdo per certi aspetti sulle piste ciclabili e che vadano in questo senso.